But while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see, we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in, engines stop running, the wheat is going thin, a nuclear error. But I have no fear, cause London is drowning. It was true. London calling at the top of the dial. And after all this, won't you give me a smile? London calling. I never felt so much alike. Vista dall'alto, l'Italia è una porzione dell'Europa non troppo vasta. Se si ascolta la sua musica più colta, ci si rende conto che però ha avuto nel passato un'influenza rilevante un po' ovunque, almeno fino alla grande epopea del melodramma dell'Ottocento. C'è chi sostiene che la melodia sia nata da queste parti e poi si sia diffusa molto efficacemente nel resto del globo. Dal basso, la nostra penisola ha tante volte prodotto musica derivativa. Negli ultimi decenni dello scorso secolo, il cosiddetto linguaggio del pop è stato utilizzato in modi parecchio diversi. Nei 60 per canzoni beat che erano cover, spesso malamente mascherate di successi stranieri. Nei 70 per incanalare la rabbia sociale dell'epoca, oppure per fornire suoni in sintonia con testi dissacranti, comici, paradossali. Negli 80 per distinguersi sempre meglio dalla canzonetta commerciale più triste sanremasca. Chi scrive è abbastanza vecchio da ricordare questi ultimi fermenti neo-rock, che hanno portato alla costituzione di un underground piuttosto forte, di cui alcuni gruppi, ancora in attività, sono stati componenti essenziali, uno su tutti gli After Hours. Un vero e proprio florilegio che comprendeva nomi poi notissimi, Litfiba, CCCP, fenomeni di culto, Franti, etichette che si dibattevano fra tensioni ideologiche e strategie commerciali. Finalmente qualcosa si muoveva in un ambito, chiamiamolo così, rock, mettendo da parte gli esempi stranieri e costruendo un'autonomia estetica che si sarebbe rafforzata con gli anni. Questo è l'inizio della prefazione di Sulla Testa 1994-2004, 10 anni di rock italiano, a cura di John Vignola, edito da Arcana. E, è appunto una sorta di compendio musicale degli ultimi 10 anni di rock italiano. John Vignola, ricordiamo, redattore del Mucchio Selvaggio, oltre che di altre testate, e si avvale della collaborazione di altri critici affermati come Luca Castelli, Carlo Bordone, Dami Rivic e Alessandro Besselva Verano. È un libro molto interessante che esalta appunto come nell'ultimo decennio si siano affermate delle vere e proprie realtà musicali in Italia, con una propria identità, che possono ambire anche ad ampliare i propri orizzonti in campo internazionale. E a proposito di musica italiana, voglio ora farvi ascoltare uno dei pezzi nostrani di questo 2005 che preferisco. Il testo è in inglese, ma loro sono di Ancona ed incidono per un'etichetta italianissima come la Home Sleep, che appunto ha un respiro internazionale, per così dire. Loro sono gli Yuppie Flu e questa è Our Nature. Night and June. mi piace davvero molto questo Our Nature degli Yuppie Flu. Gli Yuppie Flu che, come dicevamo, sono una delle realtà italiane più affermate anche a livello internazionale. Se non sbaglio, qualche anno fa hanno anche partecipato a un progetto di tributo ai Pavement, realizzando una cover del gruppo statunitense, non mi ricordo esattamente quale brano. Comunque è un gruppo che gode di forte considerazione non solo in Italia. E ora vorrei parlare di un altro progetto italiano, anche in questo caso il testo è in inglese, scusatemi, ma la prossima volta vedrò di inserire nel palinsesto anche un po' di canzoni in italiano. Ma è un altro gruppo, anche se gruppo può essere fuorviante, in quanto sotto il nome di Good Morning Boy si nasconde Marco Iacampo. Marco dal vivo è spesso accompagnato da una band vera e propria, ed è proprio dal vivo, in occasione del Rocket Festival, del Miami Festival, festival di musica indipendente che si è tenuto lo scorso giugno all'ex ospedale psichiatrico Paolo Pini, che ha avuto modo di conoscerlo. E le sue canzoni, semplice e leggere, delicate, mi hanno subito conquistato. Forse avvicinarsi direttamente all'album, io ho Hamlet Machine, che mi sembra che sia l'ultimo che abbia pubblicato, ma risale comunque, se non sbaglio, al 2003 o 2004, forse può essere un filo più difficile, ma vederlo dal vivo, vi assicuro, incanta. E proprio dopo quel festival ho comprato Hamlet Machine e ora voglio proporvi una delle sue canzoni, poi giudicate voi. La traccia è All Is Falling, è la traccia che chiude il disco, anche se poi esiste una traccia fantasma. Insomma, giudicate. We built a world, we built a house, we built the gardens of illusion. We built a body man, but we fill the void with that confusion. We spread the floor, we close the door to live a quiet segregation. We build the words, we pay the bills to get a dark illumination. All is falling, all is falling. Books like super cooks and energetic constitutions. We fill our libraries with dust and press the rules of evolution. We fought against the enemy to give our money to the lawmaker. We drunk our cokes and dug the show to give our hearts a new low breaker. All is falling, all is falling. With this old song that is about to be confirmed. There's something strong about a change, something strong that I have learned. We all can change to something strange. I'm not in love. All is falling, all is falling. Questo era Good Morning Boy con All Is Falling, anche questo è un pezzo che mi piace molto, spero sia piaciuto anche a voi. Ora vorrei parlare invece di quello che ci attende la prossima settimana in Italia dal vivo, e sarà una settimana abbastanza intensa. Ho dovuto veramente selezionare cosa farvi ascoltare per presentare alcuni concerti, anche perché il tempo a disposizione è limitato. Vorrei iniziare da un concerto che si terrà sabato 8 ottobre al Conservatorio di Milano. Saranno di scena gli Hills. Gli Hills, creatura di Mike Edwards, che è quasi un leader indiscusso, diciamo, di questa band, e pare sarà un set abbastanza scarno, abbastanza intimo, e sono proprio curioso di vederlo. Mike Edwards, che con gli Hills ha pubblicato quest'anno un album, si chiama Blinking Lights and Other Revelations, che è un doppio, veramente prolifico questo artista, ma un artista che ha subito veramente tragedie familiari di portata immensa, prima dell'uscita di Electroshock Blues, prima della scrittura dei pezzi, ha dovuto subire il suicidio della sorella e la morte per cancro della madre, e questo però non gli impedisce di scrivere canzoni pop quasi perfette, anche se ovviamente i toni di alcuni suoi pezzi sono abbastanza cupi, e però è proprio forse da questi pezzi cupi che riesce a tirare fuori le cose migliori. Basta pensare a Electroshock Blues, l'album del 98 di cui parlavamo prima, e leggere i titoli in scaletta. Abbiamo la traccia numero 2, si chiama Going to Your Funeral, oppure Cancer for the Cure, Hospital Food, insomma Dead of Winter, insomma titoli veramente cupi. E io voglio farvi ascoltare una traccia proprio da Electroshock Blues, è la traccia numero 4, My Descent into the Madness. A voi. No, I'm not a star. I'm a king of the road, yeah. Thank you. clock is love is on. If you need the pain, well, you are, yes, you are so much like me. Seasons change, nothing lasts for long, except the earth and the mountains. So learn to sing along and con Freeze the Saints, tratta dal suo ultimo album del 2005. E parlavamo appunto prima dei Pavement in occasione dell'ascolto degli UP Flu e ora appunto troviamo Steven Malkmus in versione solista, accompagnato dai Jigs. È già un 4-5 anni che si esibisce seguendo questa formula. E Steven sarà in Italia venerdì e sabato prossimo, precisamente venerdì 8 al Velvet di Aviano in provincia di Pordenone e sabato 9 a Roma al Circolo degli Artisti. Nella sua precedente tour italiano si era esibito, se non sbaglio, al Transilvania Live a Milano davanti a una nutrita schiera di appassionati. E come vi dicevo, è stata veramente dura selezionare artisti da proporre per i concerti settimana prossima, in quanto c'era solo l'imbarazzo della scelta. Possiamo ricordare per esempio gli Ockerville River, che saranno a Madonna dell'Albero in provincia di Ravenna il 4 ottobre, saranno a Roma al Circolo degli Artisti il 5 ottobre e al Circolo Arci di Legnano il 7 ottobre, accompagnati dai Morosi, e l'8 ottobre alla Libreria Acustica di Monza. Si saranno poi in Italia anche i Clams Night il 6 ottobre al Circolo Arci della Casa 139 di Milano. Ci saranno tre date, il 6, il 7 e l'8 dei Morciba, a Milano all'Alcatraz, al Palasport di Padova, al Vox di Nonantola e anche il 9 a Lecce. E come dicevamo, gli Hills, ci saranno gli Linea 77 l'8 ottobre al Rolling Stone di Milano, i Mercy Miss Monroe l'8 ottobre al Circolo Arci Jail di Legnano, Non Voglio Che Clara il 7 ottobre al Morial Tel Bar di Cellatica in provincia di Brescia. Ci saranno due date siciliane, il 7 e l'8 ottobre per i Subsonica, la prima alla Cireale e la seconda al Velodromo di Palermo. I Touring Breaks, il 7 ottobre al Rainbow di Milano e l'8 ottobre al Velvet di Rimini. E poi troveremo anche Holly con i Goodfellas l'8 ottobre al Motion di Zingonia. Come dicevamo, Steven Malkmus, che oltre a Viano si esibirà a Roma. Insomma, veramente un... e poi soprattutto anche gli Spoon saranno il 6 ottobre al Transylvania Live di Milano e l'8 ottobre al Covo di Bologna e il 7 al New Age di Roncade in provincia di Treviso. I Jennifer Gentle saranno il 7 ottobre all'Estragon di Bologna. Molteni è segnalato la settimana prossima, non è precisata la data, al Bollywood di Saviano in provincia di Napoli. E infine vi ricordo Morgan, ex leader di Blue Vertigo, allo Zero Music Club di Azzano San Paolo, in provincia di Bergamo. Ora torniamo alla musica, questo è Colin Meloy con i suoi Decemberists, Avoid the Engine Driver. I'm an engine driver on a long run, on a long run. Would I work beside her? She's a long one, such a long one. And if you don't love me, let me go. Take my hand for tender. I am tortured, ever tortured. And if you don't love me, let me go. And if you don't love me, let me go. I am the heart that you call. strada, chiedete alle yuk che si ergono solitarie ai margini del Mojave, chiedete loro di Camilla Lopez e sentirete sussurrarne il nome. Sì, perché l'ultimo che ha veduto la mia ragazza Camilla Lopez è stato un tubercoloso che viveva laggiù, all'inizio del Mojave, e lei se ne stava andando a est col cane che le avevo regalato, Pancho, e neanche lui l'ha più veduto nessuno. Non ci crederete. Non crederete che una ragazza si metta ad attraversare il deserto del Mojave in ottobre con la sola compagnia di un cucciolo di cane poliziotto di nome Pancho. Però è andata così. Ho visto le impronte del cane e vicino c'erano quelle di Camilla, che non è mai tornata a Los Angeles. Neanche la madre l'ha più rivista e a meno di un miracolo stanotte lei è là, morta in mezzo al Mojave. No, non sto cercando una trama per il mio secondo libro. È successo per davvero. La ragazza se n'è andata, io l'amavo e lei mi odiava, e questa è la mia storia. Chiedete alla polvere della strada, chiedete al vecchio Junipero Serra, che sta sulla plaza. Lì c'è la sua statua, con sopra i freghi dei fiammiferi che ho acceso per le sigarette che ho fumato, e l'umanità che ho visto passare, io, John Fante e Arturo Bandini, due in uno, amico degli uomini come degli animali. Quelli erano giorni. Vagavo per quelle strade e mi impregnavo di loro e della loro gente, come fossi fatto di carta assorbente. Arturo Bandini, un solo racconto venduto, il grande scrittore pieno di sogni e progetti. Lo rivedo ancora quel ragazzo, quel Bandini, con la sua rivista della copertina verde sotto braccio, perennemente sotto braccio. Lo vedo girare per la città, sempre disponibile con tutti, con gli uomini come con gli animali. Era un filosofo e giovane, e la sua era la semplice storia dello scrittore che si innamorava della cameriera di un bar e veniva invitato a togliersi dai piedi. I'm in the grass all wine-colored, wine-colored grass. I'm in the grass all wine-colored. I'm in the grass all wine-colored, wine-colored grass. I'm in the grass all wine-colored. I'm in the grass all wine-colored, wine-colored grass. I'm in the grass all wine-colored. I'm in the grass all wine-colored. I'm in the grass all wine-colored grass. I'm in the grass all wine color, wine.